Canto sedicesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto sedicesimo. Buio d'inferno e di notte, privata d'ogni pianeta sotto pover cielo, quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fummo ch'ivi ci coperse, né al sentir di così aspro pelo che l'occhio stare aperto non sofferse, onde la scorta mia, saputa e fida, mi s'accostò e l'omero m'offerse. Sì come cieco va dietro a sua guida per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa che il molesti o forse ancida, m'andava io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva pur: guarda che da me tu non sie mozzo. Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia l'agnel di Dio che le peccata leva. Pure Agnus Dei eran le loro esordia. Una parola in tutti era ed un modo, sì che parea traesse ogni concordia. Quei sono spirti, maestro, chi odo, diss'io, ed egli a me: tu vero apprendi e di racconti avan solvendo il nodo. Or tu chi sei che il nostro fummo fendi e di noi parli pur come se tu partisse ancor lo tempo per calendi? Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse: rispondi e dimanda se quinci si va sue. Ed io: o creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece, maraviglia udirai se mi secondi. I ti seguiterò quanto mi lece, rispose, e se veder fummo non lascia, l'udir ci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai. Con quella fascia che la morte dissolve, men vo suso, e venni qui per l'infernale ambascia. E se Dio m'ha in sua grazia richiuso, tanto che vuol ch'io veggia la sua corte, per modo tutto forte e moderno uso, non mi celar chi fosti anzi la morte, ma dilmi e dimmi s'io vo bene al varco, e tue parole fien le nostre scorte. Lombardo fui e fui chiamato Marco, del mondo seppi e quel valore amai al quale ha or ciascun disteso l'arco. Per montar su direttamente vai, così rispose e soggiunse: io ti prego che per me preghi quando su sarai. Ed io a lui: per fede mi ti leggo di far ciò che mi chiedi, ma io scoppio dentro da un dubbio sì non me ne spiego. Prima era scempio ed ora è fatto doppio nella sentenzia tua che mi fa certo, qui ed altrove quello ov'io l'accoppio. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute come tu mi suone, e di malizia gravido e coverto, ma prego che m'additi la cagione sì ch'io la vegga e ch'io la mostri altrui, che nel ciel uno ed un quaggiù la pone. Alto sospir che duolo strinse in ui mise fuor prima, e poi cominciò: frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete ogni cagion recate pur suso al ciel, così come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti,